Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Programma che inizia ora alle ore 20, 20 marzo 2025, fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano era la sigla di apertura di questo programma che è Zardins Magnetics. Andremo avanti fino alle ore 21:30, come sempre in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine e il programma va avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Ora andiamo all'ascolto di questo album, cioè all'ascolto di, non di tutto l'album ovviamente, ma di alcuni brani. È una band che è esistita proprio nei primissimi anni 2000. Questo è il loro album che porta proprio lo stesso nome della band, quindi loro sono i Phalanx di Seattle, Stati Uniti, dello stato di Washington, ed è appunto uscito questo album, appunto album omonimo, il nome della band, nel 2002, Phalanx. We'll be right back. Sì, bentornate e bentornati a Zardin Magnetics. Allora, inizio così gli interventi in voce io. E, per chi ha ricevuto così l'anticipazione, insomma, degli argomenti, il promo, diciamo, e, lo spunto è venuto da un articolo, un intervento di un combattente del Black Panther, cioè veramente di un movimento che insomma prendeva le origini dal Black Panther e poi insomma ha avuto una sua evoluzione negli Stati Uniti, Jihad Abdul Mumit, un intervento che è comparso su Invicta Palestina, dove appunto il compagno, il titolo era: se abbandoniamo i nostri prigionieri politici abbandoniamo noi stessi, dove appunto questo combattente ex cioè, che ha fatto una lunga carcerazione, insomma, che ora è stato scarcerato e tuttora fa attività politica, metteva un po' il punto, faceva il punto della situazione su questa faccenda qua, cioè sul fatto di non dimenticarsi, ma non solamente da un punto di vista così, diciamo, della solidarietà o del legame anche politico-affettivo con i prigionieri politici dentro le carceri, ma non dimenticarsi nel senso di tenere presenti questi prigionieri politici e queste prigioniere politiche all'interno delle lotte che si conducono fuori dal carcere. E da qui poi insomma abbiamo ragionato, insomma, pensando anche alla situazione delle anarchiche e anarchici dentro le galere e anche dei prigionieri rivoluzionari comunisti dentro le galere. Non faccio riferimento specifico ai prigionieri di lunga data, insomma, ci sembrava così un collegamento importante. Questo esponente appunto di Black Panther Party e Republic of New Africa, che si chiama Jihad Abdul Mumit, ci raccontava in questo articolo che la maggior parte delle volte che le persone, cioè loro facevano degli espropri bancari praticamente per finanziare, quindi delle rapine in banca, degli espropri appunto per finanziare le attività politiche dei gruppi. E questo Jihad racconta che in realtà la maggior parte delle volte durante queste azioni le persone all'interno delle banche non erano spaventate, ma erano diciamo solidali con i rapinatori. Siamo negli anni 70, no? E proprio letteralmente dice: molte volte ricevevamo applausi e incitamenti da parte dei clienti delle banche e a volte anche dai cassieri, e per dire che di base, diciamo, per quanto riguarda i cassieri come lavoratori, quindi in qualche misura come sfruttati, per quanto riguarda i clienti, tra virgolette, delle banche, persone comunque magari costrette, no, a servirsi di queste orride, di queste mostruose così emanazioni del capitale per motivi di forza maggiore, ma comunque capivano, diciamo, l'importanza in realtà delle lotte dei neri. E appunto, arrivando all'oggi, Jihad dice: ciò che i palestinesi fondamentalmente capiscono, dai bambini fino ad arrivare agli anziani, è che il movimento non abbandona i propri simili. La lotta non finisce al cancello della prigione. La prigione è una continuazione della lotta, non una conclusione. E il futuro di chi è fuori è profondamente connesso a coloro che sono dietro le sbarre dei colonizzatori. E poi dice che appunto un elemento importante che la resistenza palestinese trasmette è che c'è questo rifiuto della perfetta vittimizzazione, che invece in Occidente viene, diciamo, portata avanti come lascia passare, per così dire, rispetto alla solidarietà e al sostegno. Ovvero sia, per avere solidarietà e sostegno entra l'elemento umanitaristico, diciamo, e quindi il soggetto a cui si dà solidarietà e sostegno deve incarnare la vittima, no? Invece appunto la resistenza palestinese smentisce, demolisce, diciamo, questo fatto. E ciò che i palestinesi hanno fatto è stato rendere la lotta per le carceri una lotta popolare. Allora, da noi, così, in questi tempi di, come posso dire, di beh, uso la parola alienazione, in cui le persone vivono, cioè in cui le persone tirano avanti, questo discorso di la lotta contro le carceri come lotta popolare è abbastanza arduo. Ciononostante, ci sono degli elementi di ci sono degli elementi, insomma, che possono portare in questa direzione, no? Nel senso che comunque le persone che si trovano per appunto per questioni di classe, per questioni di marginalità, si trovano contigui all'esperienza del carcere, esperienza personale o familiare o insomma comunque, in realtà istintivamente sentono, diciamo, questa unione. Nel momento in cui si lotta contro il carcere, c'è scatta un'intesa anche con persone che non hanno così una particolare coscienza politica, nel senso che non praticano, insomma, attività politica, diciamo, nella loro vita quotidiana. E quindi questa dimensione popolare in realtà esiste. E niente, ragionando, insomma, su questa faccenda qua, sono appuntamenti, però secondo me sono appuntamenti importanti, perché si svolgono tra l'altro tutti in questi giorni, cioè tra domani, venerdì 21 marzo e sabato 22 marzo. Ci sono diversi appuntamenti che proprio vogliono lanciare questo legame, questa vicinanza, questa solidarietà, ma anche questa complicità e questa sorellanza, fratellanza con i nostri prigionieri, cioè con i prigionieri politici nostri, e proprio per non interrompere questo legame e per rimarcare il fatto che la lotta fuori e dentro è la stessa lotta. Allora, ci sono venerdì, quindi domani, due appuntamenti importanti a Trento. E al mattino ci sarà un presidio solidale davanti al tribunale per Stecco e Juan, in quanto ci sono appunto questi processi. Il nostro compagno Stecco, che è stato arrestato nel 2023, è nuovamente sotto processo con l'accusa di aver sostenuto Juan nel corso della latitanza, e appunto questo presidio è quindi in solidarietà con Stecco, ma anche con Juan, che appunto ricordiamo che è prigioniero in alta sicurezza dal 2019, è stato condannato a 23 anni ed è nuovamente sotto processo per l'attacco alla scuola di polizia Polgai. Boh, ci sono state diverse udienze, adesso non sto a ricordare tutto il trascorso. Comunque, una cosa pregnante è che continuamente c'è una infinita ripetizione delle stesse accuse in nuovi processi, quindi ci sono continuamente questi. Lo vediamo anche qui da noi, chiaramente con cose meno gravi, con danni meno gravi, ma c'è questa tendenza a reiterare, continuamente riprocessare gli stessi soggetti, gli stessi compagni, le stesse compagne, per le stesse faccende, prese da magari angolazioni diverse, insomma. Quindi una roba, questo per sovraccaricare appunto il peso dei procedimenti. E quindi è importante così farsi intimidire, insomma, continuare comunque, cioè mantenere la lucidità e continuare a sostenere non solo i compagni, ma anche le lotte che fanno. E vabbè, magari mettiamo un po' di musica e poi continuiamo con gli altri appuntamenti. Yeah. Sì, e appunto, continuando, diciamo, con questi appuntamenti importanti, oltre a questo presidio fuori dal Tribunale di Trento venerdì 21 marzo, solidale con Steco e Juan, c'è anche questa iniziativa a Brescia, sempre venerdì alle 11 è il presidio solidale davanti al Tribunale di Trento, e invece è sempre la stessa giornata venerdì 21, cioè domani, e invece questo in serata, insomma, c'è a Brescia appunto un'iniziativa praticamente su un benefit, un aperitivo benefit per Alfredo, e poi una discussione al Circolo Anarchico Bonometti sulla persecuzione ai danni della stampa anarchica e sulle operazioni repressive, le varie operazioni repressive contro le pubblicazioni anarchiche, appunto, in quanto la cioè che vuole, cioè che analizza questa faccenda qua, che gli anarchici sono messi vengono accusati di istigazione, nonostante non ci sia, appunto, essendo una questione di non istigare alcunché o alcuno, in quanto c'è assolutamente un'autodeterminazione, insomma, delle azioni, e quindi non c'è un desiderio di portare da nessuna parte nessuno, ma c'è questo appunto considerazione delle anarchiche e degli anarchici come nemico interno, e quindi questo accanimento è importante sulle pubblicazioni, appunto. Ricordiamo l'operazione Sibilla, che tra l'altro è quella che ha contribuito, diciamo, al trasferimento di Alfredo al 41 bis, e poi quella, l'operazione Scripta Scellera, che riguarda la pubblicazione di Besmotivni, e poi c'era Scripta Manent, Shadow, e poi Diana, appunto, che è andata in cavalleria, però comunque sempre su questo filone qua. E invece sabato 22 marzo a Genova ci sarà un benefit di strada, quindi musica, distro, socialità varie, insomma, per Gespe, appunto Salvatore Vespertino, arrestato il 15 febbraio in Spagna, e dopo 2 anni in cui è riuscito a sfuggire alla cattura in seguito alla condanna per l'operazione Panico a Firenze del 2017. E compagni e compagni di Genova ci dicono: scendiamo in strada per condividere momenti di socialità e solidarietà e di odio verso le galere e questa società che le produce e le sostiene. Ecco, anche questa dimensione, e ritorno un momento al discorso della lotta popolare, questa dimensione di strada dei momenti di solidarietà e anche di socialità, cioè non solamente, quindi, cioè non sono iniziative che vittimistiche, appunto, ma sono iniziative anche di festa, tra virgolette, nel senso che servono a tenersi uniti, no? Cioè a tenersi uniti e a trasmettere anche a livello di strada, quindi anche a chi passa per la strada, perché quando si è sulla strada in piazza non si sa, può sempre arrivare qualcuno che non ha mai sentito, diciamo, quello di cui si parla, ma che in quel momento lì coglie, no, qualcosa. Si è comunque in un contesto in cui non si è solo tra di noi, diciamo, e c'è la possibilità di aprire, insomma, la questione, ecco, della repressione, delle lotte e di ciò che le lotte comportano a volte, no? E quindi è una dimensione, questa qua, importante. Poi appunto anche il fatto di fare cioè di avere una così una tensione di socialità e anche di per stare bene insieme mentre si parla e si discute e si manifesta, appunto, per questioni gravi come queste qua della repressione e della carcerazione. E vabbè, ancora un po' di musica e poi magari concludiamo questo discorso. We'll be right back. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band, anzi approfitto tra un intervento e l'altro anche per presentare che prima di presentare la band che stiamo ascoltando, che prima in precedenza abbiamo ascoltato una band statunitense del New Jersey, i Gel, con un loro recente album del 2023, mentre ora stiamo ascoltando una band francese di Parigi, loro si chiamano Guillotine e i brani li stiamo ascoltando dalla rete, dall'internet, perché è un album uscito in questi giorni ed è appunto il loro ultimo album, proprio, anzi per la precisione da oggi, chi volesse acquistarlo in rete può farlo solamente da domani, vabbè chi se ne frega, comunque loro sono Guillotine. Eccoci, benvenute, benvenuti a tutti voi anche da parte mia per questa sera che è giovedì 20 marzo, equinozio di primavera. Io voglio salutare tutti, siamo a Zardins Magnetics in streaming e in FM su Radio Onde Furlane da Udine e nella rete per chi ci ascolta anche da Radio Eustachio e Radiazione. Magari ecco un saluto a tutti quelli che magari ci ascoltano per la prima volta stasera, chi lo sa, potrebbe essere, e benvenuti. Questo è uno spazio radiofonico storico di questa emittente, diciamo, nella quale appunto siamo ospitati come un'entità in autogestione e dove troviamo appunto, è uno spazio dove trovano parola e espressione, diciamo così, varie, chiamiamole istanze e poco appunto, poco diciamo compatibili con l'esistente e che hanno in testa e nel cuore qualcosa insomma di che possa andare oltre questo presente, detto con paroloni, ma comunque ecco questo è il tipo di trasmissione sul quale siete sintonizzati. Questa sera le parole che io spenderò saranno in qualche modo intrecciate a quelle di chi mi ha preceduto, perché siamo, beh, insomma, sono i giorni di ricorrenze, se si vuole si trovano una ricorrenza per ogni giorno del calendario, ma comunque in sintonia, in assonanza con questioni riguardanti prigionieri rivoluzionari, c'è la ricorrenza del sequestro Moro. Paolo Persichetti era anche lui un lottarmatista, oggi insomma, è uno dei, secondo me, possiamo dire, persone più competenti che si occupa della questione storica della lotta armata, ecco, se vogliamo dirlo così. Ha scritto varie cose, cura un blog, sta intervenendo questi giorni, tra l'altro gli ultimi, insomma, sono proprio di stasera gli ultimi interventi, una lunga intervista che non ho ancora letto. Io mi sono preparato su questa invece del 16 marzo, quindi è la ricorrenza appunto dell'attacco all'Aldo Moro e alla sua scorta da parte delle Brigate Rosse, 16 marzo 1978, la campagna di primavera. Allora, mentre, perché poi anche vorrei parlarvi anche di un'altra questione, appunto di questo discorso del complottismo, è in qualche maniera è già contenuto anche in questo intervento di Paolo Persichetti. Sequestro Moro, dopo 47 anni continua ancora la caccia ai fantasmi. La caccia ai fantasmi è l'argomento, la sostanza della questione. Pochi sanno, inizia così, che per il sequestro e l'esecuzione di Aldo Moro e dei 5 uomini della scorta sono state condannate 27 persone. La martellante propaganda, invece la martellante propaganda complottista, dice lui, sulla permanenza di misteri, zone oscure, verità negate, patti di omertà, eccetera, eccetera, ha offuscato questo dato. Allora, il dato di fatto appunto è che sono 5 procedimenti, cioè 5 diverse procedimenti, fin quando era... si cercava di esaurire tutto, e questi 5 procedimenti sono, se non sbaglio, arrivati fino alla fine degli anni 80 praticamente, con annessi connessi, insomma, ricorsi vari, si arriva alla fine degli anni 90, ma non è finito, ci sono state commissioni parlamentari aperte, chiuse, riaperte, richiuse, adesso di nuovo in piedi, cioè adesso è tuttora in piedi la commissione parlamentare Moro, e tutto questo armamentario produce fantasmi, cioè produce continuamente nuovi percorsi di indagine, mai, non si esaurisce mai questa vicenda, è un pozzo senza fondo. A me mi risuona questo discorso qua dello scavare e del cercare come una talpa, insomma, sempre nuovi tunnel, percorsi, sempre che sono poi, ve lo svelo direttamente, insomma, cosa sono? Allora, c'è in procura, a Roma, in procura, sono attualmente aperti nuovi filoni di indagine ereditati dall'attività della commissione parlamentare, eccetera, presieduta da Fioroni, che era appunto un deputato, per identificare altre persone che avrebbero preso parte al sequestro. 2 fantomatici motociclisti, un ipotetico passeggero accanto a Mario Moretti sulla 128 Giardinetta all'incrocio con Via Stresa, Via Fani all'incrocio con Via Stresa, eventuali prestanome affittuari di garage o appartamenti situati nella zona dove vennero abbandonate le 3 macchine utilizzate dai brigatisti. Si cercano ancora 4, forse 5 colpevoli cui attribuire altri ergastoli. Poi, non contenti di aver condannato 11 persone estranee al sequestro, la giustizia prosegue la sua caccia. Era la conclusione dell'articolo. Comunque voglio ripercorrerlo senza leggerlo tutto, è lungo. Comunque allora, le 16 persone, di queste 27 condannate in maniera definitiva, 16 persone erano direttamente coinvolte. 16 persone direttamente coinvolte. Sì, non mi sono segnato il numero degli ergastoli, comunque sono un bel po'. Il punto è che dopo aver diciamo scavato su tutte le persone che hanno partecipato direttamente, appunto sono 16, gli altri condannati erano quelle, diciamo, militanti, militanti di altre, come si chiama, organismi delle Brigate Rosse, che si occupavano della logistica, cioè di procurare le automobili, varie cose che, insomma, quello che era occorrevano, l'abbigliamento per travestirsi, adesso improvviso, non lo so per filo e per segno, oppure anche addirittura solo informativi, come ad esempio la brigata universitaria, perché inizialmente avevano ipotizzato di fare effettuare il rapimento nell'aula universitaria dove Aldo Moro aveva una cattedra di, se non sbaglio, diritto costituzionale, però avevano coinvolto questi militanti, tra cui Antonio Savasta, Caterina Piunti, Emilia Libera, Massimo Cianfanelli, Teodoro Spadaccini. Non hanno partecipato, dopo hanno valutato che era impraticabile l'azione nell'università e hanno abbandonato questa strada. Nonostante questo, i militanti di cui ho letto adesso, i membri della brigata universitaria, sono stati condannati ugualmente. D'altra parte c'è ad esempio un testimone di un attimo ecco sì studi storici hanno recentemente accertato che questo Alessandro Marini, testimone di Via Fani, che dichiarò di essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati da due motociclisti a bordo di una Honda, studi storici hanno recentemente accertato, cioè di Persichetti tra gli altri storici, recentemente accertato che ha sempre dichiarato il falso questo Marini. In un verbale del 94 da me Persichetti, ritrovato negli archivi, ammetteva che il parabrezza del ciclomotore, e quei ciclomotori di una volta, col parabrezza quello verticale praticamente, si era rotto a causa di una caduta del motorino nei giorni precedenti il 16. La scientifica ha recentemente confermato che non sono mai stati esplosi colpi verso Marini. Queste nuove acquisizioni storiche, non giudiziarie, hanno tuttavia spinto la giustizia a avviare procedure per una non hanno spinto la giustizia a avviare procedure per una correzione della sentenza. Al contrario, come vi dicevo prima, invece, in procura sono attualmente aperti nuovi filoni di indagine ereditati dalla commissione stragi, la commissione Moro, appunto, per cercare di identificare questi motociclisti che avrebbero sparato, in realtà è un falso, sul motorino, e poi questo ipotetico passeggero di Mario Moretti, eccetera. Insomma, è una spirale senza fine, non finirà mai, pensiamo. seconda così stazione di questi parole, insomma, sul complottismo di stasera, abbiamo visto, parentesi, Paolo Persichetti utilizza complottismo rivolto verso appunto questi famosi vari, insomma, esponenti, vari personaggi che tengono in piedi, tengono acceso ancora sto macinino del caso Moro, del chissà quali misteri, di chissà quali verità negate, di chissà quali patti di omertà, no? Quindi questi sono, sarebbero complottisti. Invece diciamo la razionalità dello storico va in cerca dei fatti, dei dati di fatto, li ricostruisce, li mette insieme e rimane, diciamo, quello più credibile alla fine, appunto, che nel caso di Aldo Moro era appunto un attacco portato a compimento da una struttura, di una organizzazione armata del movimento, alla fine il movimento operaio studentesco italiano degli anni 60-70, e appunto che rispose, insomma, in qualche maniera, e che prese di mira un personaggio che incarnava appunto il concentrazione di potere che guidava il paese, che era appunto l'Italia in quel periodo, era responsabile di una serie di cose, insomma, di scelte e di soprattutto di aver sbarrato la strada all'assalto al cielo, così detto, insomma, al tentativo rivoluzionario messo in piedi da questa generazione di compagni che hanno trovato la strada sbarrata in tutte le maniere e che comunque hanno cercato una via per saltarne fuori, una via che comportava prendersi dei rischi, che comportava anche battere dei sentieri che nessuno prima di loro aveva provato a battere. Invece voglio adesso passare a un'altra accezione del termine complottismo, perché complottismo comunque ha sempre in qualche maniera avuto anche un contenuto dentro quella parola lì, anche una spinta a cercare dei nessi che in qualche maniera andassero a giustificare una specie di sentimento di disagio che può essere percepito, no? In questo tipo di mondo di oggi, e non solo di oggi, insomma, anche di ieri, ma sempre di più, e la situazione, come si diceva prima, di alienazione, se non di derealizzazione, cioè di privazione della realtà a cui siamo sottoposti, come sfruttate e sfruttati sicuramente, ma è un fenomeno che coinvolge vaste fette di società. Sicuramente questo, dicevo, tipo di malessere può essere affrontato in vari modi, e il complottismo, fa dire qui c'è un complotto, è anche una maniera di cercare un nesso invisibile tra il nostro malessere e la situazione esterna in cui siamo messi. Stefania Consigliere, studiosa, insomma, anche accademica, eccetera, soprattutto etnologia e antropologia, che si è occupata di cui abbiamo parlato in varie puntate in passato, a proposito della crisi, insomma, in seguito a vaccinazione obbligatoria nel Green Pass, Stefania Consigliere ha scritto una recensione a un libro che si intitola L'industria del complottismo, social network, menzogne di Stato e distruzione del vivente. È un libro scritto da un militante, studioso, scrittore, critico, piuttosto giovane, a vedere la foto, francese, si chiama Mathieu Amiec ed è uscito penso recente. In Italia è stato appunto pubblicato pochi mesi fa, è stato tradotto. La recensione è divisa in 5 passaggi, prende questo discorso del incoraggiare chi legge, insomma, a comprare questo testo, in 5 passaggi fra virgolette clinici. Cioè, allora, i 5 passaggi ve li dico: sono quando uno sente di essere malato, dice, percepisce prima di tutto un disagio, cosa fa? Poi va a farsi visitare, un consulto da un esperto, diciamo così. L'esperto lo sottopone a un esame obiettivo, segue una diagnosi e una cura, possibilmente. Allora, il disagio, come vi dicevo prima, vado a leggervi dalla recensione, è una questione estetica, ha a che fare con la percezione. Molti di noi avvertono in sé una dissonanza, la non coincidenza fra quel che sentiamo e quel che siamo tenuti a pensare, fra quel che sappiamo e il modo in cui viviamo. Fra i timbri di comunicazione e i sussulti del diaframma, a volte la distanza si fa insostenibile e ci si trova allora a fuggire dagli odori dei grandi magazzini, angosciati per le file di tir in autostrada, di dentifrici al supermercato, di uomini armati in centro città, atterriti dalle rassicurazioni dei politici, perplessi per un biglietto aereo che costa meno di quello del treno per l'aeroporto, attraversati da improvvisi impulsi luddisti e via dicendo, ciascuno secondo un proprio spettrogramma di sensibilità lese. È raro che la dissonanza arrivi a piena coscienza, più spesso se ne resta nelle retrovie del sentimento, come scarto o angoscia senza nome, una fibrillazione da silenziare subito, perché se ascoltata subito ci renderebbe incoerenti rispetto al mondo in cui viviamo, folli dunque, o più probabilmente depressi, intristiti a morte per qualcosa che sentiamo ma non sappiamo nominare. Allora, secondo passo è il consulto, appunto la visita, no? L'esperto può fornire diverse risposte. Di solito la risposta è curati, perché curati nel senso, ogni dissonanza è una disfunzione individuale, che si chiami depressione, che si chiami ADHD, che si chiami crisi di panico, eccetera eccetera, anoressia, paranoia, eccetera, sono sempre interpretate da un punto di vista personale. Ti gratti, tradotto in italiano, ti gratti, stai male, ti gratti, devi grattarti, vai a cercarti qualcosa, insomma, esisterà per ritornare a marciare. Altrimenti ci sono appunto altri tipi di risposte, che sono ad esempio le famose letture complottiste, cioè letture ispirate, diciamo così, quelli che prendono i fiori di Bach, adesso, per dirla proprio in maniera brutale, ad esempio, no? Oppure le varie appunto narrazioni cosiddette di tipo timbrate come complottiste, che però adesso, oltre che essere completamente, cioè immediatamente attaccate appunto ai vari rettiliani, QAnon eccetera, no, la grande sostituzione, comunque anche queste letture hanno di buono, diciamo, hanno un pregio, che è quello di riuscire a spostare finalmente il motivo del malessere dalla persona che sta male, cioè dall'interiorità al fuori, diciamo, allo stato di cose. Esiste, Dio bon, esiste un contesto dove è messa questa persona, no? Ed è messo in un certo modo, che dopo appunto siano letture anche strampalate, è un altro paio di maniche. Passo ulteriore è appunto, esiste accanto a queste letture strampalate anche il pensiero cosiddetto critico, no? Le famose letture di cui ci siamo anche occupati, insomma, l'Enciclopédie de Nuisance è una di queste, insomma, di queste pietre miliari del pensiero critico, del pensiero radicale, della critica radicale. In Italia, insomma, abbiamo avuto anche un autore come Piero Coppo che, oltre che esponente della critica radicale, si è occupato in maniera approfondita dell'etnopsichiatria, cioè è andato a studiare, anche la consigliera, insomma, si è occupata di questo, è andato a studiare i sistemi, appunto, come funzionano le comunità di tipo non moderno, non colonizzate, come funziona appunto la ricerca dei nessi, si dice eziologici, cioè della malattia, perché quando uno sta male, appunto, che cosa si va, insomma, qual è la ragione che si fa intercettare. Ecco, esame obiettivo, successivo passo, no? Passa praticamente la recensione, passa in rassegna tutta una serie di cose che vengono esposte in questo saggio, che ricordiamo è L'industria del complottismo. E in particolare, cioè no, non è che riassume tutto il libro, è una recensione, però si concentra su questa cosa del nucleare, no? C'è stata una recente pubblicazione, tra l'altro, Il mondo come progetto Manhattan, dai laboratori nucleari alla guerra generalizzata alla vita, e ci sono delle ipotesi che molti dei problemi, diciamo, di tutti i generi che abbiamo, dalla crisi climatica a decessi inspiegabili a varie cose, insomma, partono dal tipo di impatto che ha avuto la sperimentazione con le armi nucleari, quelle note, non quelle che non sappiamo, a proposito di complottismo. E, per concludere, vado a leggervi ancora un passaggio di questa recensione. Diagnosi: dove sta la follia? Secondo una celebre ipotesi eziologica, la schizofrenia insorge a seguito dell'esposizione a messaggi contraddittori da parte di qualcuno la cui versione dei fatti non può essere contestata. Così, un genitore che malmeni un figlio dicendogli che lo fa perché gli vuole bene rischia di produrre dissociazione. Al figlio, infatti, non è possibile né ipotizzare che il genitore sia disfunzionale né tenere insieme due messaggi così contraddittori. L'insieme della comunicazione a cui siamo esposti presenta più di qualche analogia con questa situazione. Qualche esempio: il tecnoentusiasmo con la promessa che il progresso tecnico risolverà tutti i problemi, e chi non ci crede è un oscurantista, unito alla consapevolezza che lo sviluppo tecnoindustriale è la causa prima della catastrofe ambientale. La diffusione dell'agribusiness per nutrire il pianeta, virgolette, e chi non ci crede è un cinico, e le ondate di suicidi tra i contadini. Una green transition che punta dritta all'ossimoro del nucleare pulito e l'impossibilità di bonificare i siti dei disastri nucleari. Il Green Pass, descritto come strumento di prevenzione del contagio, e vaccini, nel cui bugiardino stava scritto che non proteggevano dal contagio, per non dire dei molti conti che non tornano, non torna che nel migliore e più progredito dei mondi la maggioranza delle persone sia afflitta da durevole tristezza, che la sola impresa conoscitiva valida non riesca neanche più a prevedere che tempo farà domani, che la lotta di tutti contro tutti possa portare alla maggiore felicità possibile e via dicendo. Mala tempora curunt, quando la lingua del potere può ignorare la logica e imporre la sua versione unica dei fatti, peggiori ancora e già prossimi al totalitarismo, quando le menti dei sudditi si acconciano al bipensiero, a tenere per vere nello stesso momento due cose contraddittorie, a scivolare nella dissociazione pur di non ammettere che la follia è quella del mondo che ci circonda, degli infami che lo governano, della struttura stessa del dominio e del plusvalore. E basta, direi, per questa recensione. Andremo, io andrò a vedere questo libro personalmente, in qualche maniera cercheremo di procurarcelo e così passiamo ad altro. Sì, passiamo ad altro, però rimaniamo collegate, perché Allora, si parlava prima rispetto a questa roba della morologia, insomma, in occasione della data appena passata, appunto, del rapimento Moro. Si tornano a tirar fuori come questi tormentoni persecutori, insomma, queste ricerche, come si diceva prima, che non avranno mai fine, insomma, e in nome di questa questione del terrorismo, che è, appunto, l'abbiamo detto, insomma, in varie situazioni è una specie di lascia passare per ogni atto efferato dello Stato, no? Nei confronti di chi resiste. Allora, proprio questa accusa di associazione con finalità di terrorismo, il famigerato articolo 270 bis del codice penale, sta alla base di un processo attraverso il quale lo Stato italiano processa la resistenza palestinese. Mi riferisco al processo contro Anan Yaesh e altri due suoi compagni palestinesi, Ali Irar e Mansour Dogmosh. Diciamo che c'è stata l'udienza preliminare qualche giorno fa, e adesso, no, scusate, il vabbè, comunque c'è stata questa udienza preliminare, e adesso, però, quindi un'udienza filtro, adesso la prima udienza in cui ci sarà un dibattimento vero e proprio sarà il 2 aprile all'Aquila. Allora, diciamo un momento di cosa si tratta. Anan viene arrestato il 27 gennaio 2024, quindi un anno e più fa. Si tratta di un arresto provvisorio, in quanto veniva richiesta l'estradizione da parte dello Stato di Israele. E quindi la Corte d'Appello decide di la custodia cautelare in carcere in vista di questa estradizione. L'accusa è di essere un componente attivo della resistenza palestinese in Cisgiordania, in particolare nella città di Tulkarem, della quale lui è originario. E la difesa praticamente evidenzia che, sapendo qual è il trattamento dei prigionieri politici nello Stato palestinese, nello Stato di Israele, e cioè un trattamento di tortura, vessazione, eccetera, disumano, e non è, questa estradizione non è possibile. E quindi la difesa, diciamo, sostiene questa tesi. La Corte d'Appello dell'Aquila decide di accogliere questa istanza difensiva, e quindi dice: Anan Yaesh non può essere estradato in Israele, appunto perché il timore che possa essere sottoposto a tortura, eccetera, è fondato, e inoltre la Corte d'Appello dell'Aquila ordina l'immediata liberazione di questo resistente palestinese. Però che cosa su questo succede il 13 marzo del 2024, un anno fa. Però che cosa succede? Parallelamente, la Procura della Repubblica, quindi la Corte d'Appello dell'Aquila prende questa decisione. Parallelamente, la Procura della Repubblica dell'Aquila si attiva autonomamente, e praticamente l'11 marzo, quindi due giorni prima di questa sentenza favorevole ad Anan Yaesh, ottiene l'emissione da parte del giudice per le indagini preliminari di una misura cautelare in carcere nei confronti dei tre compagni palestinesi, ai sensi dell'articolo 270 bis del codice penale, quindi per associazione con finalità di terrorismo. Allora, con questa roba qua praticamente Anan rimane in carcere, e gli altri due compagni vengono scarcerati dopo sei mesi comunque di detenzione. E insomma, e quindi il teatrino, diciamo, del potere si ricompone in questa maniera qua. Sì, praticamente, quindi non viene considerato un terrorista automaticamente, diciamo, e questi resistenti palestinesi vengono considerati terroristi. E allora, vabbè, non sto adesso perché non c'è tempo anche a fare tutto, insomma, c'è una interessante intervista all'avvocato, a uno degli avvocati di Anan, che spiega un po' tutte le perversioni del diritto, no? Come vengono utilizzati, insomma, i reati politici e questa parola, questa incriminazione di terrorismo, come viene utilizzata per distruggere appunto la dissidenza, ma e anche per continuare a tenere il sacco allo stato genocida israeliano. Però volevo leggere alcuni così brani, pezzetti di una dichiarazione spontanea che Hanan Yaesh ha fatto in occasione appunto dell'udienza preliminare che c'è stata il 26 febbraio scorso. Sì, ecco, l'unica cosa che vale la pena dire è che questo discorso della incriminazione per terrorismo, per associazione con finalità di terrorismo, dice l'avvocato appunto che praticamente l'Italia recepisce la Convenzione di New York del 1999 con una legge, vabbè, dell'inizio del 2000, e che questa legge stabilisce un limite al diritto all'autodeterminazione, cioè pur riconoscendo che uno Stato è uno Stato di occupazione, come lo Stato di Israele, perché che lo Stato di Israele occupi la Palestina è una roba, diciamo, base, cioè non può essere smentita, infatti si chiamano territori occupati anche nel linguaggio, diciamo, giuridico. E nonostante questo viene stabilito un limite al diritto all'autodeterminazione dei popoli, in questo senso che con questa legge l'Italia dice che in un contesto bellico c'è differenza quando i soggetti colpiti non siano militari, cioè militari nel senso con la militari regolari, diciamo dell'esercito regolare, con la divisa eccetera, se le persone colpite non rientrano nella categoria dei militari, le azioni compiute contro di loro rientrano nella categoria del terrorismo e non vengono più riconosciute come resistenza legittima. Solo che le azioni che appunto queste persone, come si definiscono loro, partigiani della resistenza palestinese, le persone colpite sono coloni e i coloni non sono civili, i coloni sono armati fino ai denti, ma comunque sono delle forze, rappresentano le forze di occupazione, non sono dei civili, diciamo, inermi. E comunque non c'è stato nel caso di Hanan nessuna prova di secondo la quale sono stati colpiti dei civili, ma il discrimine, insomma, la questione di lana caprina per lo Stato italiano è questa qua. Allora leggo brevemente, insomma, alcuni pezzi di questa dichiarazione spontanea del compagno, proprio per dare voce a lui, insomma. Lui dice: se riconoscete la legittimità dello Stato di Palestina, allora la richiesta di estradizione avanzata nel gennaio dello scorso anno nei miei confronti avrebbe dovuto essere presentata attraverso il governo del mio paese. Se invece considerate la Palestina come un territorio illegalmente occupato da una potenza coloniale, allora la resistenza è un diritto legittimo e non dovreste arrestarmi qui per tale motivo. Sfortunatamente, signor giudice, ho preso visione delle vostre osservazioni sul caso e con rammarico ne ho dedotto che considerate il palestinese terrorista non per la legittima resistenza che porta avanti contro uno Stato occupante, ma perché riconoscete Israele come uno Stato amico. Se in ballo vi fosse stato un altro paese occupante, ad esempio la Russia, avreste riconosciuto la legittimità della resistenza palestinese. Non mi state processando in base al diritto internazionale, ma in base ai vostri rapporti diplomatici, solo perché Israele è considerato un alleato del governo italiano, un partner commerciale, e ritenete legittime tutte le azioni che esso porta avanti. Tanto vale allora cambiare il nome delle corti internazionali e umanitarie in corti degli amici. Volete che mi difenda dalle accuse a mio carico, ma mi vergogno di cercare la soluzione d'accuse che per me rappresentano un motivo di onore. Non voglio difendermi dall'accusa di avere dei diritti e di averli rivendicati o di aver tentato di liberare la mia gente e il mio paese dall'oppressione coloniale. Giuro che non intendo essere assolto dalla legittima resistenza contro l'occupazione sionista. La resistenza palestinese è uno dei fenomeni più nobili conosciuti dalla storia. Piuttosto mi vergogno di trovarmi in una stanza calda, anche se in carcere, mentre i bambini di Gaza muoiono di freddo, fame e sete. Mi vergogno del buon trattamento ricevuto dalle autorità carcerarie qui, mentre i miei fratelli prigionieri nelle carceri israeliane vengono sottoposti ai peggiori tipi di tortura, oppressione e sevizie. Signor giudice, su tutti i miei documenti rilasciati in Italia non è riportato il nome Palestina, ma quello di territori occupati. Quindi sapete che quella terra è occupata e di conseguenza, in base alle convenzioni firmate dal vostro paese, dovete ritenere legittima la resistenza contro l'entità occupante. Perché allora mi ritrovo oggi detenuto da parte vostra? Come partigiano palestinese sono costretto a osservare che da un punto di vista politico il mondo adotta due pesi e due misure. Colui che è più forte e appoggiato dagli USA è colui che prevale. Nella prima udienza estradizionale di febbraio 2024 ho chiesto alla Corte d'Appello e al Procuratore Generale di non consegnare i contenuti dei miei telefoni cellulari agli israeliani, in quanto contenevano informazioni riservate che detenevo in qualità di resistente palestinese, di comandante partigiano. Mi è stato risposto che ciò non sarebbe accaduto, poiché erano consapevoli che eravamo in guerra e che l'Italia è neutrale. Tuttavia, sono rimasto sorpreso nel sapere che ad aprile scorso tutte le informazioni contenute nei miei cellulari sono state passate agli israeliani. In questo modo avete violato ogni principio di sicurezza e lo stesso diritto internazionale, diventando di fatto partecipi degli israeliani in questa guerra, aiutandoli nella repressione delle legittime aspirazioni di un popolo oppresso. Signor giudice, contro di noi si sono schierate tutte le nazioni e gli eserciti del mondo, pensando di liquidare la nostra causa, ma la nostra causa non finirà finché ci sarà un solo bambino palestinese in vita. I nostri diritti li riavremo. Non chiediamo pietà a nessuno, non ci inchiniamo davanti a nessuno, anche a costo di essere tutti uccisi, arrestati o deportati. I palestinesi non abbasseranno la testa né mendicheranno pietà, perché abbiamo dalla nostra parte la ragione. Signor giudice, in passato sono stato sottoposto decine di volte alla tortura. Sono anche stato vittima di tentati assassini da parte di Israele, sia in Palestina che all'estero. Nel mio corpo vi sono 11 proiettili e oltre 40 schegge. Non ho un osso che non sia stato rotto. Non ho un passato se non alcuni ricordi e foto di amici uccisi per mano dell'occupazione e di un'amica giustiziata a sangue freddo davanti ai miei occhi. Ho una famiglia che non vedo da lunghi anni e due genitori morti senza realizzare il loro sogno di rivederci un'ultima volta. Ho una patria devastata, un popolo sfollato e persino le nostre case sono state demolite dai bulldozer israeliani. Ciononostante non ho mai fatto un passo indietro né esitato nel rivendicare il diritto del mio paese alla libertà e non ho mai chinato il capo davanti a nessuno. Questo perché credo fermamente in questa causa. Cosa sarà mai essere ucciso per la libertà del mio paese e del mio popolo? Cosa sarà mai trascorrere anni in carcere per la mia causa? Specie considerando che vi sono oltre 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane e io sono una parte indivisibile di loro. Se vi è una cosa che mi rattrista è che tutti i miei compagni hanno avuto l'onore di cadere martiri lottando per la Palestina, nutrendo con il loro sangue quella terra di pace e amore violata dall'occupazione sionista, e io non ero al loro fianco. Non amiamo la morte, al contrario, siamo un popolo che ama la vita più di ogni altra cosa. Tuttavia preferiamo la morte con dignità e onore al vivere nell'umiliazione, con i nostri diritti negati. Signor giudice, noi crediamo che la Palestina lo meriti e che la nostra amata Gerusalemme abbia un caro costo che ogni palestinese è disposto a pagare con la propria anima. Qualcuno di voi può alzarsi e dire che Israele è uno stato occupante, oppressore, terrorista? Questa verità la sapete tutti in cuor vostro, ma nessuno di voi può dirla ad alta voce, perché vi ritrovereste accusati di antisemitismo, perdereste il vostro lavoro o potreste trovarvi a dividere con me il tavolo a pranzo in carcere con un'accusa di terrorismo. Per questo dico e ripeto che forse i palestinesi sono i soli liberi in questo mondo di schiavi. Viva la Palestina libera e araba, viva Gerusalemme, sua eterna capitale, pace all'anima dei martiri e dei bambini di Palestina, saremo sempre la prima linea di difesa fino alla liberazione. Ecco, questa era appunto, erano dei brani della dichiarazione spontanea che Anan Yaesh ha fatto durante l'udienza preliminare. E tra l'altro questo compagno è, ricordiamo che è detenuto in alta sicurezza nella stessa sezione di Juan e anche di svariati prigionieri di lunga data, cioè che sono detenuti da oltre 40 anni, appunto prigionieri politici, compagni delle Brigate Rosse. E niente, sì, il tempo stringe, quindi per stasera diciamo noi concludiamo qui gli interventi e niente, lasciamo la parola alla regia per i saluti e anche per i contatti, insomma per le notizie sui contatti, e alla prossima, ciao. Loro sono distanti, giunti al termine, il tempo stringe, ricordo tramite posta elettronica, scusate, probabilmente avevo tenuto alto il volume e quindi credo sentito poco quello che ho detto fino a poco tempo fa. Vabbè, che siamo giunti al termine della trasmissione Stringe, Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30, trasmettiamo da Radio Onde Furlane, e se volete contattarci potete scrivere attraverso posta elettronica intestando a liberetutti@autistica.org, ripeto liberetutti@autistica.org, oppure scrivendo in forma cartacea e intestando ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129 Trieste Centro 34121. Poi altra cosa che se volete riascoltare questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, potete andare sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, questo è tutto, vi lascerò con un ultimo brano dei Protest Era, altra band svedese che abbiamo anche ascoltato prima. Ciao a tutti, al prossimo giovedì, oggi 20 marzo 2025, quindi salutiamo chi ci ascolterà domani 21 marzo dalla web radio Radiazione dalle ore 17, e chi ci ascolterà invece la mattina, sempre di domani alle ore 11 su Radio Eustachio. Bene, ciao a tutti.